Ore 21, qui dagli 87.9 in modulazione di frequenza, anche per questa sera prove tecniche di trasmissione, 28 ottobre 2020. Oggi rientrerà anche 25 o'clock, che andrà in onda intorno alle 22.30, 22.45, appena finito questo spazio. www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci con un computer. Domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder andrà la registrazione di questo odierno programma, playlist e naturalmente tutti i suoni che usciranno dalla nostra strumentazione. Saluto Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Maya dalla Sardegna insieme a Nicola Locci, Stigmate e Hexagonal, Isa e Tua alla Milano. Cristiano Bocci di Chemical Resistance dalla Toscana. Un grosso abbraccio a Sasha Rovelli della Lucesia. Lucia Cagliazza, ossia Lupsi, della quale ascolteremo il suo meraviglioso album insieme a Michael Bonaventure. La salutiamo. Attualità nera nella persona di Andy Rivieni. Un saluto a Daniele Ciullini, una new entry. Like Awake invece, una vecchia conoscenza qui di Roma, omonimo progetto di Ambient, Antonio Zoviet, un amico ormai di lunga data di Omicidio di Firenze, Marco qui a Roma, affezionato anche lui, lo ringraziamo. Pioggia d'Ambra, Emanuele Fais, il medico della peste, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Wurnus Island, un pezzo di industrial piemontese. Aima and the Illusion of Silence, iniziamo con questa collaborazione tra Aima Project, ex Legion Discordan, e questa nuova realtà dal nome per l'appunto di Illusion of Silence. Insieme hanno composto Music for Certain Rituals, un nome e un programma, quindi un grosso contenuto di musica ritualistica, atmosfere ascetiche in sospensione, dilatate e neoclassiche. Abbiamo già apprezzato qualche brano nelle scorse settimane e questa sera ci andremo ad ascoltare De Petilia Tablet e Ama il tuo sogno seppur ti tormenta. Questa fonte non ha costanti neppure, costanti da presso. Di loro sono figlio di terra e di cielo stellante. Inoltre la mia stirpe è celeste e questo sapete anche voi. l'enorme potere evocativo ed ascetico che emana questo Music for Certain Rituals di Aima and the Illusion of Silence. La grande qualità vocale di Aima Project. E la perizia anche agli strumenti di Luca Bonandini, che va proprio a fondare ed appartenere a Illusion of Silence, l'esordio per quanto riguarda questa collaborazione così riuscita. De Petelia Tablet, Ama il tuo sogno seppur ti tormenta, un bellissimo brano e un bellissimo titolo che può far riflettere tutti noi. Uscito in due momenti nel settembre attraverso la Indie State Distribution e poi attraverso la Retorte, invece un'etichetta estone, nell'ottobre, proprio qualche giorno fa. Ci godremo altri due passaggi anche la prossima settimana e vado a salutare la stessa Aima che ci sta ascoltando. Buonasera a Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente, anche lui nell'ambito del ritualistico sacrale, con il suo progetto musicale che abbiamo apprezzato in passato qui da queste parti. Salutiamo Veronica qui a Roma e Fulvio Biondo di Soral Lodge. Andiamo a goderci anche un'altra collaborazione al maschile e al femminile attraverso Lupsi e Michael Bonaventure. I viaggi visionari con l'organo e la tastiera elettronica di Michael Bonaventure, artista scozzese, e gli arpeggi incredibili di Lucia Cagliazza in arte Lupsi, Across the Blood. Ebbene, questa sera ci andiamo ad ascoltare Inner Vision, Stones in the Sky, Across the Blood. Vado anche a salutare Flavio Derbecante di Noise Cluster. Eh sì, come dice Giovanni Lisi, potente alieno, il forte potere escapista di questa Cross the Blood. L'ottima collaborazione tra gli organi e i sintetizzatori di Michael Bonaventure e la chitarra reverberata, trattata, a tratti anche lancinante, di Lucia Cagliazza in arte Lupsi. Across the Blood, rintracciabile sul profilo Bandcamp della stessa Lucia. Una delle migliori cose di questo 2020. Eh sì, proprio una fusione originalissima tra chitarra e tastiere. Salutiamo dunque Arianna Degni Lombardo, anche lei di Noise Cluster, al pari di Flavio Derbcante. Consueta capatina dalle parti di Napoli con Raffaele Pezzella, gran cerimoniere della sua Anest Place Sounds label. E anche per questa sera ci tocca, ed è un piacere, andare un po' ad analizzare la parte digitale di questa compilation proveniente dai Balcani. Ricordo una metà uscita anche con supporto fisico e una seconda invece rintracciabile soltanto sul supporto digitale, quindi sul profilo Bandcamp. Ci andiamo ad ascoltare July I Am and the Took con questa Recycle. Hey. Da Tuk, naturalmente i più pazienti possono andare a cercarsi qualche notizia su questo forse duo. La cosa sicura è che proviene da uno dei numerosi paesi che compone la penisola balcanica. La prossima artista si chiama Maria Sumarak. Eccola qua, è partita. Questo brano si chiama Waves, leggermente più meditativo rispetto alle ipnotiche intersezioni precedenti. Eccola qua, Maria Sumarak. Thank you. Questa Waves, per quanto riguarda Maria Sumarak, con un inizio, diciamo tra virgolette, rilassato, per poi intraprendere un divenire più contorto e più sofferto fino alla fine di questa traccia, che appartiene all'ennesima carta vincente giocata da Raffaele Pezzella attraverso Balkan Region Music Survey Anthology of Post-Industrial Music from Balkan Region, titolo lungo ma esaustivo e direi chiaro negli intendimenti, un viaggio in questa regione dei Balcani, quella più nascosta, quella più sperimentale, quella che ci piace di più. Un viaggio che anche in questa parte digitale continuerà il prossimo mercoledì. Altro artista per quanto riguarda il concetto di sofferenza, sia nel rumore ma sia nelle cose più dilatate, è sicuramente Dominic Farno, in arte Prurient. E questa sera terminiamo l'analisi di Noise for Halloween Night, mai più azzeccato titolo in questo periodo. Un Halloween particolare per chi magari ha attenzione verso questa, diciamo, celebrazione, chiamatela come volete. È inutile ricordare il momento che viviamo. E quindi andiamo a sentirci direttamente Poison Apple e Victims of Eternal Doom. Thank you. Uno degli ultimi lavori per quanto riguarda Prurient, Dominic Ferno, si chiama Noise for Halloween Night. Un po' diverso da molto del suo materiale passato, questi rumori sinistri e questa cadenza così cinematica da film horror, che a qualcuno è piaciuta, ad altri meno. Comunque una carriera immensa quella di Dominic Ferno, dal 98 una sterminata quantità di album e di lavori, spesso attraverso la Hospital Productions, la sua label. Saluto intanto della peste, medico della peste, Giovanni Lisi. Noi invece siamo qui a Radio Onda Rossa alle 21:54 e tripla www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. La potenza dei campionamenti la potremo anche apprezzare attraverso l'ultimo lavoro di Rome, di Jérôme Reuter, artista lussemburghese. Anche per lui giungiamo al termine del viaggio con questo Garten und Strassen, campionamenti tratti dalla resistenza francese contro l'invasione nazista, e quindi molte tracce che prendono spunto da quegli eventi tragici ma anche vincenti. Cinque tracce brevi, ossia Sur de Les Falaises de Marbre, Soldat et Croyant, Stahl und Stein, Der Arbeiter e La Grande Trahison. Die wilde Jagd, den schmalen